Letture di Radio 24. In Italia ci sono 115 milioni di linee telefoniche tra fisso e mobile, ma solo l'1% di queste è nella lista dei numeri protetti. Il resto è in balia del telemarketing sempre più aggressivo. Contro la dittatura dei call center ora però, l'Unione Europea sta pensando ad un prefisso unico. Lo sbarramento esiste. Si chiama registro delle opposizioni. Copre poco più dell'1% delle utenze, nessuna di quelle dei cellulari, e nemmeno tutti gli operatori di telemarketing sono così corretti da rispettarlo. Così ogni giorno sui cittadini si riversa una tempesta di offerte apparentemente mirabolanti, sul gas, sulla luce, sui telefoni, sulle assicurazioni auto. Operatori incalzanti fanno il loro mestiere, tentare di convincere a ogni costo. A volte ci riescono. Le difese psicologiche, spesso nei più anziani, sono facili da travolgere. Ormai le telefonate giungono dalle numerazioni più innocue, prefissi italiani, anche se le agenzie di telemarketing sono all'estero, i più ricorrenti quelli di Milano e di Roma. Non è solo un problema del nostro paese. L'Europa delle istituzioni spesso bizantine stavolta ha partorito un'idea semplice. Un solo prefisso speciale, e solo quello, può essere utilizzato dai teleoperatori. È una proposta che sta nella bozza di regolamento sulla riservatezza che la Commissione europea ha presentato nelle settimane scorse. Attenta ai conti degli Stati, la Commissione ipotizza che si possa anche pagare una tassa per ottenere queste numerazioni. È la più semplice delle soluzioni. Sarà adottata in Italia? Nessuno ci crede, non solo perché la legislazione è tra le più tolleranti del continente, ma anche perché hanno fatto flop fino ad oggi i tentativi di arginare il fenomeno. Il motivo? Anche se nessuno lo dice mai esplicitamente, interventi troppo radicali potrebbero mettere in ginocchio un comparto che impiega 40.000 lavoratori. Ma qual è lo stato dell'arte in Italia? Il traguardo più rapido pareva essere la proposta della senatrice dei conservatori e riformisti, Anna Bonfrisco, insieme con il disegno di legge concorrenza predisposto dal governo Renzi. Poi però è tornato nel mondo dei sogni dopo il no al referendum e le dimissioni dell'ex premier. Gentiloni sembra intenzionato a rispolverarlo in tempi brevi. La proposta prevede l'apertura del registro delle opposizioni anche a tutti i numeri dei telefoni cellulari. Sarebbe il primo passo. C'è però un'altra iniziativa, più completa, in cammino. Nuove eventuali elezioni permettendo, dovrebbe approdare in Parlamento a marzo. Qual è il futuro prefigurato? Non solo la possibilità per tutti, anche per i numeri dei telefonini, di iscriversi al registro delle opposizioni, ma anche di poter riparare a quella che, nella maggior parte dei casi, appare una disattenzione degli utenti. In moltissimi casi il consenso a utilizzare il numero privato è stato concesso, ma inavvertitamente. Magari ritirando la card gratuita di un grande magazzino, firmando un contratto d'acquisto o un finanziamento, magari dando l'ok per l'uso gratuito del wifi di un albergo. Certo, l'avvertenza che il proprio numero sarebbe stato ceduto anche alle società di promozione era scritto in caratteri minuscoli, oppure con formule non chiarissime. Ma una volta apposta la firma è quasi impossibile tornare indietro. La proposta di legge prevede un azzeramento totale del sistema. Una soluzione caldeggiata dal garante della privacy, tabula rasa. Però poi, attenzione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Menduni, massacrati dalle telefonate dei call center? Ora l'Unione Europea pensa ad un prefisso unico per limitarle, dalla Stampa del 30 gennaio. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Letture di Radio 24. Il peso è una delle ossessioni del nostro tempo. Un'ossessione pericolosa se diventa la misura del nostro stato di salute. Molti studi, infatti, sostengono che in termini di benessere e longevità, la cosa più importante non è il peso, ma la composizione corporea, l'equilibrio tra tessuto adiposo e massa muscolare magra. Una nuova ricerca condotta dalla University of Auckland arriva alle medesime conclusioni, ma trasferisce la questione sul piano linguistico. L'errore di prospettiva, sostengono i ricercatori, può essere corretto con uno slittamento semantico. Basta con il termine overweight, sovrappeso. Meglio utilizzare la parola overfat, termine traducibile in italiano con ipergrasso. Secondo i ricercatori neozelandesi, il BMI, l'indice che misura il peso corporeo totale e decreta i valori entro cui si è obesi o sovrappeso, è uno strumento di valutazione molto grezzo della salute metabolica. Eppure, molti pazienti e dottori considerano solo questo dato. Il termine overfat, che comprende una stima più approfondita dei disturbi metabolici, permetterebbe invece di descrivere meglio le patologie e impostare interventi più significativi. Certo, le tecniche di misurazione del tessuto adiposo sono tipologicamente diverse e difficili da ottenere in modo costante per le persone comuni. Tuttavia, mostrano un'emergenza ancor più radicale di quella evidenziata dal BMI, che sottostima la portata dei disturbi metabolici. Negli USA, gli overfat sarebbero addirittura il 76% della popolazione. Data la difficoltà di ottenere dati sul tessuto adiposo, i ricercatori consigliano alle persone di iniziare a buttare le bilance e usare il metro per misurare il girovita, poiché è l'obesità addominale la patologia più pericolosa. Nessun dubbio che servano indici di misurazione più precisi, ma uscire fuori dal concetto di sovrappeso può essere un primo passo per inquadrare meglio uno dei problemi più pesanti del nostro tempo. E quello che avete ascoltato era l'articolo «Perché rottamare il termine sovrappeso?», pubblicato il 2 febbraio sul sito Pagina 99. Lasciare Trieste, il secondo romanzo di Christophe Palomar, parla di un manager che, come lo scrittore, si trova sempre in viaggio. In queste pagine il protagonista ripercorre gli anni trascorsi a Trieste, città di letterati, crocevia di culture, a lungo ferita dalla dominazione jugoslava e dalle stragi compiute dai partigiani di Tito. Tracce di un passato che si possono ritrovare camminando per le vie del centro. In galleria, scrive Palomar, vedo vecchie foto della città, tutte foto di gente bene, che è qua per guardare e per farsi vedere. Allora chiudo gli occhi e provo a immaginarla, quella gente. L'immagino seduta ai tavoli vuoti che mi circondano, pronta ad andare a sentire la lirica, proprio qui dietro. Crediamo di poter comprendere il passato, ci illudiamo di viverlo con la mente, ma è semplicemente impossibile. Nonostante non siano cambiate queste pietre, nonostante queste foto davanti a me, Trieste è colta, al di là dei miei colleghi. Lo sapeva Camus e lo sapeva anche mia nonna, che ignorava tutto di Trieste, mentre mia madre a Trieste c'era venuta con la scuola, aveva 16 anni. Lo so di preciso perché qualche tempo fa mi diede una foto, una di quelle foto incredibilmente ben stampate e incredibilmente piccole, che si facevano allora, incredibilmente nitide anche. È la foto di una ragazza tutta sorridente in mezzo ad altre ragazze sorridenti davanti a Miramare, un pomeriggio d'estate. Dietro la foto una scritta scolastica fa «Trieste 1954». In quell'anno Trieste concludeva la sua stagione all'inferno. Presto sarebbe tornata italiana. Adesso le ragazze sorridono compatte, si stringono in una gioia comune, quella della vita che sboccia, quella del futuro che sa di fiori e di sole. Vestono gonne eleganti e strette in vita, come si usava allora, e portano occhiali da sole a gocce. Quelle stesse gonne, quegli stessi occhiali, le fanno tutte uguali, tant'è che faccio fatica a riconoscere mia madre. Comunque sia, sorridono al fotografo. Sono davanti a Miramare e sorridono al fotografo. Non sanno nulla di Trieste. Pensano di essere delle ragazze francesi in vacanza in Italia e presto torneranno a casa in quella Francia strana, quella Francia un po' assolata che è persino uscita dai libri di storia. Sorridono, ignorando quasi tutto del mondo. Però sorridono. Non possono immaginare il futuro, né tantomeno il passato, però sorridono. Così funziona con gli uomini. Meno sanno e più sorridono. E non appena imparano qualcosa, smettono di sorridere. A volte per anni, a volte per sempre. Una rosa in un bicchiere, due gerani al davanzale, Trieste floreale, canzoni antiche da osteria, di vino, donne, nostalgia, Trieste mia. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Christophe Palomar, Lasciare Trieste, Pendragon Editore, 118 pagine, 13 euro. Come ogni anno, la giornata del ricordo, istituita con una legge del 2004 per commemorare le vittime delle foibe, il dramma dei 300.000 italiani costretti ad abbandonare le loro case, viene preceduta da polemiche da parte dei negazionisti che ogni volta che si parla di crimini commessi dai partigiani mettono in atto una censura preventiva verso ogni forma di commemorazione. Il motivo del contendere questa volta è la serata prevista per il 13 febbraio alla Palazzina Liberty di Milano, contestata da Anita Pirovano, consigliere comunale del gruppo Sinistra per Milano, che definisce vicini all'ultradestra neofascista i musicisti invitati per la serata e si dichiara indignata che sia stato concesso loro un luogo la cui memoria è legata a Franca Rame e a Dario Fo, peraltro a sua volta ex repubblichino. Al di là delle solite polemiche, quello che si è perso di vista ancora una volta è l'obiettivo della giornata del ricordo, come scrive Dino Messina sul Corriere della Sera. Nell'aprile-maggio 1945, scrive Messina, mentre nel resto dell'Italia settentrionale si festeggiava la liberazione, ai confini orientali controllati dalle truppe di Tito, la gente era in preda alla paura. Gli arresti degli italiani avvenivano all'improvviso e le esecuzioni compiute dopo processi farsa. Le violenze riguardavano ex fascisti, preti, ma anche partigiani in disaccordo con Tito. Era in atto una pulizia etnica che avveniva attraverso fucilazioni o con il metodo dell'infoibamento. Le vittime venivano gettate nelle foibe, le profonde fenditure del territorio carsico. Una fine orrenda, che aveva già riguardato altri centinaia di italiani nelle Jacquerie del settembre-ottobre 1943. Nella primavera del 1945 le violenze toccarono picchi mai visti per la corsa degli jugoslavi ad accaparrarsi la maggior fetta di territorio possibile, inclusa Trieste, dove in effetti il 1° maggio la quarta armata jugoslava precedette di 24 ore la seconda divisione neozelandese. Gli animi si calmarono solo il 9 giugno con l'accordo su due zone di occupazione delimitate dalla cosiddetta linea Morgan. Fin qui abbiamo accennato soltanto a una parte della storia, perché dopo il trattato di pace del 10 febbraio 1947, non è un caso che per la giornata del ricordo sia stata scelta proprio questa data, cominciò un lungo capitolo fatto di silenzi e faziosità. Sulla tragedia delle foibe e sul dramma dei profughi si preferì costruire una verità di comodo e lasciare il campo all'ultradestra per una serie concomitante di fattori. Innanzitutto, il Partito Comunista Italiano, ancora al governo quando fu firmato il trattato di pace, vedeva di buon occhio le concessioni territoriali alla Jugoslavia. Sulla questione orientale pesava poi l'imbarazzo per la strage partigiana di Porzus. Il secondo motivo per cui si cercò una verità di comodo è che dopo la rottura tra Stalin e Tito nel 1948, anche ai paesi occidentali conveniva sposare la versione jugoslava, secondo cui le violenze anti-italiane erano state degli eccessi di un'insurrezione popolare e non azioni preordinate dei partigiani e della polizia segreta titina. C'era infine una ragione di Stato che consigliava prudenza, ed era il fatto che molti ufficiali italiani ancora in carriera erano accusati da Tito di crimini durante l'occupazione fascista della Jugoslavia. Meglio non agitare le acque. Così, per ricordare senza remore quella tragedia, abbiamo atteso oltre mezzo secolo e gli effetti della rimozione si fanno sentire ancora oggi. Quello che avete ascoltato era l'editoriale di Dino Messina, Quell'imbarazzo sulle foibe a Milano, figlio di una lunga rimozione, dal Corriere della Sera del 6 febbraio.